We have had some technical problems. Hit it! 2 0 2 4 2024 2024 In questa puntata di 2024 ospitiamo tra poco Marco Zamperini, uno dei più attivi esperti di tecnologia, per parlare di comunicazione digitale nell'Italia 2.0. E poi le novità in arrivo per i programmi di navigazione, i nuovi browser a partire dal nuovo Internet Explorer numero 9. Non è un aggiornamento della versione precedente, ma un progetto completamente nuovo. E naturalmente uno sguardo anche ai concorrenti di Internet Explorer. La settimana prossima arriverà Firefox 4, che è uno dei più agguerriti concorrenti, non a caso il secondo browser più diffuso. Infine con National Geographic andiamo su Marte e parleremo anche delle sonde che studiano il sistema solare. 2 giorni fa è arrivata in orbita attorno a Mercurio la sonda della NASA Messenger. È la prima volta che l'uomo riesce a mettere in orbita attorno a questo pianeta una sonda per poterlo studiare da vicino e per lungo tempo. 2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è l'anteprima dei temi di cui ci occuperemo tra poco. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Prima dei nostri approfondimenti, come sempre, i videogiochi e il gioco proposto da Stefano Gallarini. Video game. Video game. Siamo pronti con una nuova puntata dedicata al mondo dei videogiochi e l'inizio è destinato alla soluzione del gioco che li vede protagonisti, soluzione della settimana scorsa. Per sconfiggere il mostro di fine livello dovete, come al solito, superare i primi 2 livelli. Ed ecco le risposte. Livello 1. Era così il Saturno di Ozpetek. La risposta era contro. Livello 2. Quello da baseball ha la forma di un diamante. La risposta era campo. Mettendo insieme le due parole si ottiene controcampo e il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. L'arte dove lo si usa. La risposta era ovviamente cinema, cioè l'arte che utilizza il controcampo. Molti hanno risposto calcio, ma quello ovviamente è uno sport. Complimenti a Piero che si porta a casa il sensore Kinect e 2 giochi tutto rigorosamente Microsoft. E a questo punto è il momento di farvi giocare anche questa settimana. Come sempre dovete risolvere i 2 livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere quindi la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. In premio anche questa settimana il sensore Kinect e 2 giochi Microsoft per Xbox 360. Livello 1. Quello degli impiegati è bianco. Siamo pronti a parlare del titolo di questa settimana. Prendete in mano il controller e preparatevi a battere. I giochi di simulazione sportiva sono fra i più numerosi nel mondo videoludico e il primo Top Spin è datato 2003. Inizialmente il gioco era disponibile solo per Xbox, ma più tardi venne creato anche per PC e PlayStation. A differenza di altri titoli dedicati al mondo del tennis, Top Spin ha sempre cercato di rendere la simulazione il più possibile vicina a una partita reale. E Top Spin 3, uscito ormai 3 anni fa e disponibile per tutte le piattaforme, è stato giudicato un grande titolo. On behalf of the players and officials, welcome to the Rod Laver Arena Exhibition. Oggi è la volta di Top Spin 4, disponibile per Xbox 360, PlayStation 3 e Wii, ed è considerato il miglior simulatore di tennis mai realizzato fino ad ora. 25 tennisti, fra i quali Roger Federer, Rafael Nadal, Pete Sampras e Andre Agassi, con i quali scontrarsi sui più famosi campi del mondo, che siano sintetici, di terra o di cemento. Prima però di iniziare con il primo set, ecco la seconda parte del nostro gioco che vi permette di portarvi a casa il sensore Kinect. Livello 2. Per i francesi è la 13ª. Torniamo a parlare di Top Spin 4. Nel gioco potrete creare il vostro tennista e fargli intraprendere una vera e propria carriera, oppure potrete divertirvi interpretando uno dei campioni a disposizione. La mia partita veloce è fra Nadal e Serena Williams, più che altro per vedere i vestiti della campionessa e sentirne i versetti tipici degli sforzi compiuti ad ogni risposta. Giocare è facile e decisamente coinvolgente e l'intelligenza artificiale si adatta molto bene alla nostra capacità di gestire la partita. I comandi particolarmente reattivi danno l'opportunità di cimentarsi con questo sport a tutte le categorie di giocatori, che siano esperti o che siano casuali, e l'atmosfera perfettamente ricreata danno davvero la sensazione di trovarsi nel mezzo di una partita. Giocatori ricreati alla perfezione, con le espressioni facciali estremamente realistiche, campi perfetti e movimenti molto precisi, fanno di questo titolo un bel passatempo che entusiasmerà anche i novellini. Se avete poi la possibilità di un televisore 3D, le versioni Xbox e PS3 vi daranno l'opportunità di affrontare le partite con un realismo tridimensionale mai visto fino ad ora. James Williams. Williams leads one game to one. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa il sensore Kinect con Kinect Adventures e un altro gioco per Kinect offerti da Microsoft. La risposta a videogiochi@radio24.it. Mostro di fine livello. Così è definito quello che collega il carburatore al motore. E adesso la classifica. Quinto posto per idraulico Mario in versione atletica alle prese con Mario Sport Mix. Scende al quarto posto il nuovo capitolo dello sparatutto in prima persona esclusivo per PlayStation 3 e da vedere anche a 3D, Killzone 3. Al terzo posto si gioca in compagnia con il social game Wii Party. Primo e secondo posto per la Nintendo DS con la versione bianca e nera di Pokémon, Pokémon Black e Pokémon White. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini. Ci sono alcune persone che ci hanno scritto negli ultimi giorni, ci hanno domandato se il terremoto, lo tsunami, l'allarme nucleare che hanno colpito il Giappone possano creare problemi all'industria della tecnologia, visto che se ne parla molto in rete. Secondo una piccola indagine che abbiamo realizzato, al momento la situazione è ancora molto incerta. Alcuni stabilimenti sono stati temporaneamente chiusi e potrebbero esserci ritardi nelle consegne di alcuni prodotti, anche se la prevista diminuzione della richiesta interna nel mercato giapponese potrebbe fare dirottare alcuni prodotti verso l'estero in modo da riequilibrare le forniture. Ma sicuramente seguiremo da vicino l'evoluzione di questo mercato, che naturalmente poggia per buona parte sul Giappone, anche se molti prodotti sono confezionati e prodotti in Cina, in Taiwan e in altri paesi. I prodotti tecnologicamente più avanzati o una parte di questi prodotti sono realizzati in Giappone, ad esempio molti schermi sia LCD che al plasma vengono realizzati in Giappone, in alcune fabbriche. La prossima settimana 2024 parleremo di TV. Sarà con noi Gianfranco Giardina, che da poco è tornato dal Giappone poco prima di questi drammatici fatti, e quindi lui sicuramente ci potrà raccontare qual è la situazione e spiegare quali sono gli eventuali problemi che ci potranno essere. Ora parliamo di Internet Explorer, la nuova versione, la numero 9, è stata lanciata da Microsoft all'inizio di questa settimana. Ricordiamo che Explorer 9 è disponibile solo per Windows 7 e Vista. Ecco le principali novità con Luca Figini, responsabile della rivista Laptop & Netbook. La principale novità è che innanzitutto non è un aggiornamento della versione precedente, ma un progetto completamente nuovo. Quindi ha un motore nuovo, ha tecnologie nuove e non c'entra nulla con la 8 finora disponibile. Le principali novità riguardano appunto le prestazioni, quindi maggiore velocità, una maggiore sicurezza. Microsoft ha lavorato molto per migliorare la sicurezza aggiungendo funzioni e migliorandone tante altre. Dulcis in fundo ha un'interfaccia molto più pulita, molto più semplice da utilizzare, che sfrutta meglio l'area disponibile sul display. Luca, perché i programmi di navigazione per internet sono così importanti? Le aziende si fanno concorrenza e si susseguono così tanti annunci? Il motivo appunto è proprio perché fondamentalmente è il programma più utilizzato di un PC per chiunque abbia internet, ma in particolare perché queste aziende si fanno concorrenza per il futuro, nel senso che le applicazioni e comunque il modello di utilizzo del computer si sposta sempre più verso il web, e quindi le applicazioni hanno una radice fondamentale nelle risorse che sono presenti online. Avere un browser che sia efficiente, che abbracci nuove tecnologie, che sia aperto a qualunque standard e che magari proponga dei nuovi che interessano all'azienda o alla fondazione che ci sta dietro, beh, questo garantisce un terreno fertile per poi costruire un business futuro. Fondamentalmente le aziende si stanno facendo concorrenza per vincere domani, e per vincere domani poi per creare un ciclo virtuoso all'interno della loro struttura, e quindi portando utenti, portando traffico, portando conoscenza, portando tracciabilità di chi si connette. Quindi ci stai dicendo che i servizi di Google funzionano meglio con Chrome, i servizi di Microsoft funzionano meglio con Internet Explorer e via così? Fondamentalmente tutti puntano a una piattaforma comune che è l'HTML5, cioè questo nuovo linguaggio di sviluppo del web, dei siti web, che è molto più semplice da utilizzare per chi poi sviluppa, ma è molto più bello per chi poi ne vede i frutti, perché i siti sono più belli, sono più ricchi, sono più multimediali. Loro partono da questa piattaforma comune e Microsoft con Internet Explorer 9 ha fatto grandi passi in avanti sotto questo fronte. Partendo da questa piattaforma comune, ciascuno poi tenta di proporre una tecnologia che potrebbe essere interessante. In passato questo concetto è stato declinato con la TVX di Microsoft, che ha tentato di proporre una tecnologia per poi portare verso i propri servizi. In futuro si stanno sviluppando una serie di altre tecnologie, quindi la piattaforma è comune, poi ciascuno tenta di portare, di fidelizzare dei partner e clienti sulle proprie tecnologie. Quali sono attualmente le principali alternative a Internet Explorer? Allora, in settimana prossima arriverà Firefox 4, che è uno dei più agguerriti concorrenti, non a caso il secondo browser più diffuso. Il terzo è Google Chrome, la 10 è stata presentata un paio di settimane fa, poi c'è Opera 11.01, la versione più recente, e il quinto browser più diffuso al mondo, che è Apple Safari, recentemente aggiornato alla quinta release. A fronte di questi 5 browser fondamentali c'è una pletora di ulteriori alternative, come Flock per esempio, come tantissime altre, che sfruttano magari i motori sviluppati da questi principali browser per adattare, non so, in senso social, piuttosto che aggiungendo funzioni, piuttosto che integrandosi con Facebook, eccetera. Sono sostanzialmente 3 le direzioni di sviluppo dei nuovi browser, quindi nuovi programmi per navigare su internet: maggiore velocità nel caricamento delle pagine web, tutti fanno a gara chi è più veloce, maggiore attenzione alla sicurezza, questo è un grande problema, e sicuramente le evoluzioni più recenti dei programmi di navigazione, i browser, sono più attenti a questo aspetto, e anche, l'avete sentito, compatibilità con HTML5. Alcuni dicono che in futuro questo nuovo linguaggio di programmazione, il nuovo HTML, sostituirà ad esempio Flash. Vedremo, ma sicuramente questa è una parola forse un po' nuova per alcuni e sulla quale fare attenzione. Siete all'ascolto di 2024, riprendiamo tra poco. Numbers. 2024. Numbers. Quali sono i web browser più diffusi sul mercato europeo? Numbers. Abbiamo detto poco fa che Internet Explorer è il programma di navigazione più diffuso, ma se guardiamo i dati europei, quindi il mercato europeo, alla domanda quali sono i browser più diffusi in Europa, scopriamo che al primo posto, seppur di poco, con il 37,38%, c'è Mozilla Firefox, seguito da Internet Explorer della Microsoft con il 36,37%. Più distaccati troviamo Google Chrome 16,5%, Apple Safari con 4,8% e Opera con il 4,2%. Questa è la situazione del mercato europeo, i dati sono di StatCounter aggiornati al marzo 2011. Saluto, benvenuto a Marco Zamperini, benvenuto 2024 Marco. Ciao Enrico. Marco Zamperini è ufficialmente Chief Technology Officer, quindi la persona che si occupa di tecnologia, di value team, ma io ho detto uno dei più attivi, autorevoli, potrei aggiungere una lista di aggettivi, esperti di tecnologia in Italia. Che cosa fai tu, Marco? Buona domanda, ti ringrazio per la domanda. Quindi ho un lavoro, come hai detto tu, che mi impegna anche abbastanza, però una delle cose che vivo con grande passione è, visto che sono stato, anche per un fatto semplicemente anagrafico, uno degli iniziatori di internet in Italia, sono molto attivo dentro la rete, attorno alla rete, per tutto quello che riguarda l'utilizzo consapevole anche delle tecnologie. Esatto, anche di questo parleremo oggi. Vi invito a chiamarci, perché a Marco Zamperini potete fare forse qualunque tipo di domanda sulla tecnologia, naturalmente. Il nostro numero verde è 800 24 00 24. Devo dire, a proposito di social media, che forse è una delle espressioni delle quali tu ti sei maggiormente preoccupato e occupato negli ultimi tempi, non c'è social media che nasca che Zamperini non utilizzi. Assolutamente, giusto? Assolutamente. Non c'è miglior modo di apprendere le tecnologie che viverle e quindi utilizzarle. Dunque oggi tu, io non l'avevo annunciato nei giorni scorsi, perché fino, diciamo, a mezz'ora fa non lo sapevo nemmeno io, è venuto con te Gianluca Dettori, che è un altro sul quale potremmo spendere molti aggettivi. Tu oggi, Gianluca, ciao, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio. Tu oggi fai l'investitore, giusto? Sì, esatto. Però tu hai fatto, insomma, un pezzo di storia di internet in Italia. Io, come anche Marco Zamperini, prestigioso qui presente, diciamo che adesso mi trovo dall'altra parte. Ai tempi io ero un ragazzo che voleva fare una società, un sito di musica, e poi ho trovato un investitore, un venture capital, si chiamava Piol. E col suo aiuto si è riusciti a trovare i capitali per fare l'azienda, che si chiamava Vitaminic. Di questo parleremo oggi. Parleremo naturalmente dell'evoluzione dei social media, di internet, della comunicazione, cercando di declinarla anche nell'Italia 2.0, se esiste un'Italia 2.0. Numero verde 800 24 00 24, per chiamarci, gli sms alle 349 238 6666. Ci risentiamo tra qualche minuto, dopo le notizie di GR24. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24, per parlare con i nostri ospiti. Oggi Marco Zamperini con noi, e poi anche Gianluca Dettori, fondatore di DPixel. Marco, prima abbiamo accennato all'evoluzione dei social media. Pare a me, è vero, non è vero, confermi o meno, stiamo parlando di un mondo ancora piccolo, limitato. Ricordo una volta una persona che fece un'affermazione che mi è rimasta impressa, che ha detto: non siamo ancora al web 2.0, ma siamo solo allo 0.2. Poi dipende come, se uno intende l'evoluzione tecnologica o l'evoluzione della alfabetizzazione digitale. Stiamo parlando di poche persone o già di molte persone? Stiamo parlando di moltissime persone, soprattutto nel nostro paese. Quindi fermiamoci per una volta sull'Italia, no? Visto che poi quando si parla di questi fenomeni la tentazione di guardare a quello che avviene negli Stati Uniti o fuori dal nostro paese è forte, mentre invece è interessante notare che ormai anche nel nostro paese Facebook, giusto per fare un esempio, è fuori da ogni dubbio il media numero uno, nel senso che ormai si discute su quanti siano effettivamente i profili attivi, però ormai è ragionevole pensare che siano circa una ventina di milioni. Sì, quindi l'amministratore delegato di Facebook Italia qua poche settimane fa ci ha detto che mediamente al giorno, sì, 20 milioni sono in un mese, al giorno sono 12 milioni, che è impressionante. Esatto, impressionante. Che è impressionante. Quindi questo, un numero di questo tipo vuol dire che ormai chiunque, cioè qualunque cittadino italiano, su una popolazione diciamo di circa 60 milioni, è comunque raggiunto da qualunque messaggio rilevante che passi attraverso Facebook. Cioè, al massimo, con un grado di separazione, ognuno di noi viene raggiunto dal messaggio. Questa è una penetrazione da TG1, no? Cioè, sono dei numeri ormai nemmeno più. Nemmeno più, esatto. Lo share di Facebook è molto più di quello di un telegiornale nazionale che va in prima serata. Quindi da questo non si può prescindere. In più, l'attitudine, non solo ormai delle nuove generazioni, ma un po' di tutti, no? Di comunicare, di condividere, è successo, che piaccia o meno, è successo, no? Perché esattamente come io sono abbastanza vecchio, anche tu, da ricordarti un tempo in cui non esisteva il bancomat. No? Ah sì. Adesso tu prova a togliere il bancomat alla gente e dire: va bene, adesso non hai più il bancomat. la gente impazzisce, no? Anche se noto quando arrivo al casello dell'autostrada, io uso il telepass, ma c'è ancora un sacco di gente che va e paga. E qui cogliamo un problema che è un problema molto del nostro paese, cioè la mancanza di fiducia tante volte, no? Perché in realtà la gente sa perfettamente come funziona una tecnologia anche relativamente complessa come quella del bancomat. Tutti si avvicinano agli sportelli del bancomat, ogni banca ha un modo di proporre le sue funzionalità diverse, perché non c'è un accordo standardizzato, quindi bottone in alto, bottone in basso, colori diversi. Gli utenti sono molto concentrati perché mettono la loro plastica e vogliono i loro soldi indietro e superano la barriera tecnologica. Agli sportelli delle autostrade c'è una assenza di controllo, cioè c'è un problema di interfaccia, no? Perché tu metti la tua tessera e non sai bene cosa succede. Non devi neanche digitare un PIN e questo ti allarma un po', no? E quindi è un problema psicologico. Gianluca Dettori, visto Zamperini ci dice, insomma, stiamo parlando già di un mondo che esiste ricco e numeroso, c'è anche un corrispondente business, visto che tu ti occupi fai l'investitore. Beh, molto rilevante di questi tempi. Investiamo molto nel campo di social media, tra l'altro ho visto proprio anche questa attitudine degli italiani a socializzare, perché poi sono delle macchine da conversazione, stanno aprendo dei business incredibili e ci sono delle startup italiane assolutamente all'avanguardia in questo campo. Considera una cosa, facciamo un esempio semplice, la Nutella ha più amici su Facebook di Obama, sono 4 milioni fischia, ok? Beh, perché insomma la Nutella mi piace, no? È automatico, Nutella ti piace, che vuoi fare? Quindi 4 milioni di amici, considera che 4 milioni di fan sulla tua pagina aziendale, mediamente metti che siamo ognuno di noi a 100 amici connessi, vuol dire vedere o raggiungere 400 milioni di persone. 400 milioni di persone, francamente, con un mezzo che è nelle tue mani. È tuo. Sì. Pensa che addirittura mi raccontano che il gruppo di fan della Nutella non è stato creato dalla Ferrero, semplicemente esatto. I fan della Nutella hanno creato questa cosa. Adesso questa informazione, questa rete sociale di persone, per esempio c'è una startup pugliese molto interessante che sto seguendo, che ha questo motore che prende tutta questa rete di 400 milioni di persone, quello che viene chiamato dai tecnici il grafo sociale, cioè in ogni campo, anche nella Nutella c'è un influenzatore, c'è un super Nutella man che, come dire, diventa un po' il tuo predicatore della Nutella. Ecco, nei social media cerchi di parlare come azienda con quelli. Tra poco riprendiamo, adesso ci sono le informazioni da strade e autostrade, questo è 2024. Numbers. 2024. Numbers. Quanti sono ad oggi i domini registrati .it? Numbers. 2024. Il numero verde per parlare con noi oggi, stiamo parlando dell'evoluzione della comunicazione in questa Italia 2.0. che abbiamo già capito esiste, il numero verde è 800 24 00 24, se volete inviarci un sms 349 238 6666. Vi abbiamo domandato quanti sono i domini.it. Ad oggi, il dato è aggiornato ad oggi a mezzogiorno, secondo il registro italiano sono 2.138 i domini registrati appunto con il suffisso nazionale.it. Non siamo messi male, ci sono nazioni naturalmente più evolute digitalmente, ad esempio la Germania che ci supera di gran lunga. A proposito di domini, è stato approvato ieri durante una riunione a San Francisco dell'ICANN, che è l'ente che supervisiona il sistema dei domini a livello mondiale, il nuovo suffisso punto XXX, che sarà riservato all'industria del porno. La prima richiesta, pensate, era stata fatta nel 2004 ed era stata finora respinta. Alcuni governi potrebbero però proibire l'accesso a questi nuovi domini. Tanto per avere un'idea comunque del business che c'è dietro, la società che gestirà questa registrazione, ICM Registry, ha già raccolto 234.000 pre-registrazioni. Dettori, tutti ti occupi anche di questo, nel senso nelle startup ci sono no, abbiamo delle regole etiche. Noi siamo advisor di un fondo di venture capital con investitori istituzionali, abbiamo delle regole etiche, non possiamo investire in due campi fondamentalmente, uno è questo e l'altro è il betting. Per, con le scommesse, sì. Però se ci sono nel mondo 234.000 pre-registrazioni di domini XXX... No, è un business gigantesco, ovviamente. Beh, non so se hai delle statistiche, Marco. No, possiamo dire che uno dei motivi, parlavamo prima in trasmissione dei nuovi browser e di HTML5, uno dei motivi per cui c'è questa accelerazione di tutti i browser verso lo standard HTML5 è quello di rendere più facilmente fruibili i siti porno che si sono adattati a fruire i loro contenuti in HTML5 su iPad, ad esempio, che come sapete non accetta Flash. Quindi questo da solo, no? Questo singolo fattore, giustifica che tutta un'industria si muova verso certi standard. Quindi questo direi rende l'idea, no? Sì, dell'importanza. Sì, sì, sì. Però per chiarirci, non è ovviamente uno dei, dei business più grandi di internet, anzi no. È uno dei business più piccoli forse di internet, ci sono business enormi su internet, la pubblicità online, ovviamente il commercio elettronico in testa, ma è tutto quello che gira intorno. Dunque, una delle domande che più spesso mi fanno, o comunque parlo di considerazioni più che di domande, è Marco, sulla semplicità. Stiamo parlando di un mondo che in effetti complica sempre di più le cose, oppure no? Ma, sai, dipende ovviamente dai punti di vista. Quello che posso dire è che in questo momento Facebook, come altri social media, ma Facebook in particolare, vince come a suo tempo vinse Google, perché comunque propone un'interfaccia molto semplificata per fare una quantità di cose che prima, e questo poi è un po' l'essenza del web 2.0, se vogliamo, il fatto che in realtà la pubblicazione di contenuti, la partecipazione, anche solo per commentare una serie di contenuti, è estremamente più semplificata. Cioè non è richiesto nessuna speciale competenza tecnologica per partecipare. Mia figlia di 9 anni, il suo profilo Facebook, si diverte un sacco. Questo è un altro punto, e lo vorrei toccare subito. Il rapporto tra genitori, bambini e tecnologia. Visto che a volte si dice, attenzione, non lasciate i vostri bambini davanti al computer perché nasconde qualche cosa di pericoloso. A volte un ascoltatore, ricordo, disse, basta utilizzare le stesse avvertenze che si utilizzano nella vita normale, non lascereste mai vostro figlio girare da solo di notte in una città. Esattamente. Ma tu come fai, visto che... Io seguo le regole del buon senso del bravo genitore, diciamo, perché esattamente come non darei a mia figlia di 14 anni un motorino senza obbligarla a mettersi il casco, ad esempio, o senza assicurarmi che sappia riconoscere i segnali stradali, alla stessa maniera esercito un minimo livello di sorveglianza sulle loro attività. Ci sono alcune regole semplici che si possono seguire. La prima tra tutte, secondo me, che è molto importante, è quella di mettere il computer a disposizione dei minori in un luogo ben in vista. Cioè, una cosa da non fare, ad esempio, è mettere il computer in camera, o almeno un computer connesso a internet, in una camera chiusa, molto meglio metterlo in salone. No? Perché anche se non si esercita un controllo costante, ovviamente il minore è consapevole del fatto che i genitori in qualunque momento possono osservare le sue attività. E questo già solo questo, no, fa quasi metà del lavoro. E poi ovviamente un minimo di attenzione a quello che fanno i nostri figli, ma questo, ripeto, come lo facciamo per le loro attività scolastiche, extrascolastiche, esatto, e quant'altro. Usare anche qualche software? Sì e no, perché poi i software che fanno da controllo parentale piuttosto che dei filtri un po' più sofisticati sconfinano nell'intrusione della privacy, secondo me, e poi di fatto elevano il livello di complessità. In realtà mediamente non ce n'è bisogno. Sì. Sentiamo Franco che ci telefona dalla provincia di Padova. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 0024. Franco, buongiorno, ti ascoltiamo. Sì, buongiorno. Sono Franco, faccio il medico, abito nella provincia di Padova, per cui non certamente una zona disagiata, diciamo, dal punto di vista della comunicazione. Volevo proprio sottolineare la situazione della trasmissione di questi dati, in pratica è stato buono, cioè nel senso la TV via internet, tutti tutta questa comunicazione, tutti questi flussi dati, però abbiamo una rete che è vecchia, obsoleta, non c'è l'ottico, le via radio è completamente satura, la lentezza, i vasti non si contano, per cui è evidente che tutto resta a livello molto, molto, come si può dire, teorico, fino a che non avremo una rete che è capace di sopportare tutto ciò. Cioè adesso avremo la TV via cavo, questa evidentemente non potrà sopportare i fermi che vediamo su YouTube, cioè i blocchi, perché se uno si guarda un film vorrà vedere gli streaming, ecco. Per cui tutto questo flusso dati non sappiamo come farà a passare, da dove passerà, in che maniera e in che modo. Certo, tu dici, noi stiamo parlando di una rivoluzione che già coinvolge milioni di persone, ma che rischia di o non coinvolgere gli altri milioni o comunque di peggiorare la situazione anche di quei milioni. Al di là del digital divide, sì, che è molto pesante, abbiamo delle reti che ci sono, che sono collegate in ADSL, con delle situazioni di piantamento terrificante della linea, di rallentamenti incredibili, di ingolfamenti totali, per non parlare dei 5 guasti che ho avuto nell'ultimo anno, per carità, poi prontamente risolti, ma evidentemente però ci sono stati, certo. Infatti in un anno vuol dire che c'è anche una rete molto vecchia, molto, certo, certo. Per la rete elettrica non ci sarebbero stati questi 5 guasti. Grazie Franco, cito una notizia e così ci colleghiamo con quello che ha detto Franco e anche con quello che abbiamo raccontato la scorsa settimana, perché abbiamo parlato proprio delle connessioni, delle varie possibilità di connettersi alla rete internet che abbiamo anche in Italia. Cito una notizia che arriva dagli Stati Uniti. La AT&T ha annunciato che dal 2 maggio introdurrà un limite massimo di traffico sui contratti ADSL e potremmo dire un ulteriore passo verso la fine delle ADSL flat, cioè canone mensile e traffico illimitato, una tendenza che potrebbe presto arrivare anche in Italia. Abbiamo detto la scorsa settimana, per i clienti AT&T il limite è fissato in 150 giga di traffico superato al mese in 3 differenti mesi, quindi un limite molto elevato, e secondo la AT&T solo il 2% dei clienti supera questa soglia. Però quello che ci diceva Franco è un problema, ne stiamo discutendo a livello di paese, però faccio la domanda a Marco, è un problema? Assolutamente sì, nel nostro paese ovviamente continuiamo a girare attorno al problema delle reti di nuova generazione, che tutti desideriamo a diversi livelli, chiaramente soprattutto come utenti vorremmo più fibra, più banda disponibile, anche perché abbiamo tutta la capacità di saturarla, no? Quindi la banda disponibile è un po' come la memoria di massa, più ne abbiamo più la usiamo. Ecco, no? Qui va anche detto che gli operatori ci hanno venduto ADSL, fibra, eccetera eccetera, dicendo così puoi scaricare un sacco di cose, ci hanno abituato. Adesso che saturiamo la banda, gli operatori dicono però ti limito, filtro il peer-to-peer perché fa troppo traffico, quindi c'è un po'... Sì, in realtà il problema anche dal punto di vista degli operatori è un po' più articolato, perché poi non tutti gli utenti si comportano alla stessa maniera e mediamente, a seconda dei profili di utilizzo, però tendenzialmente sulle varie reti, sia fisse che mobili, più o meno il 20% degli utenti che si mangia l'80% della banda disponibile, no? Quindi in realtà... Io credo che lo scenario più sensato che si andrà a verificare, e che in parte sta già avvenendo, sia che gli operatori, sia di rete fissa che di rete mobile, facciano una segmentazione più accurata, no? Perché effettivamente il fatto che ci sia un limite può essere pesante per alcuni profili di utilizzo, irrilevante per altri, perché effettivamente ad esempio 150 giga di download sono veramente una quantità mostruosa per la maggioranza degli utenti, per alcuni potrebbe essere un problema, quindi probabilmente è anche giusto, no, pensare a delle tariffazioni differenziate ad esempio. Sì. Dettori, abbiamo parlato di business, questa è una cosa che mi interessa molto. In Italia, due domande: ci sono i soldi da investire in giovani start-up, ma ci sono anche le start-up, o molti giovani vanno a chiedere denaro per creare nuove aziende all'estero? Dunque, non ci sono molti soldi per le start-up in Italia e... diciamo, questa è la brutta notizia, non ce ne sono molti, Ce ne dovrebbero essere di più per una nazione di circa 60 milioni di abitanti, con l'infrastruttura culturale che si porta dietro, delle università e della ricerca, insomma, assolutamente di livello mondiale. Però la buona notizia è che ci sono almeno dei soldi, almeno di più di quanti non ce ne fossero 3 o 4 anni fa. Insomma, c'è un'industria del venture capital che sta rinascendo, e io ne sono in qualche maniera una piccola testimonianza, essendo in quel campo. L'altra domanda è se ci sono startup, e questa è la bella cosa: ci sono moltissime startup, e comunque oggi il mondo con 80 euro è un volo low cost e è un palmo, insomma, da casa, non è neanche così lontano, non è accessibile. Ci sono tante l'Europa, tutto il mondo, ci sono nazioni, sì. Il Cile ha lanciato, il Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato adesso Startup Cile, un'iniziativa per importare 1000 startup da tutto il mondo a installarsi in Cina. Ti danno il visto, ti danno $40,000, gli uffici e l'alloggio. Hanno coinvolto per il momento, in un test che si è concluso, 24 startup da 14 nazionalità, anche americane sono andate in Cile. Sì, no, dicevo, quindi gli, ci sono 80... startup, ci sono in Italia, se non trovano i denari in Italia poi vanno all'estero, ne abbiamo diversi esempi. Sì, sì, no, dicevo, gli 80 euro sono per l'Europa, poi se uno deve andare negli Stati Uniti deve spendere un po' di più. Ma no, assolutamente questo, questo... no, anche negli Stati Uniti adesso uno dei settori più interessanti del venture capital è il venture capital, diciamo seed capital da 50.000 euro. C'è in particolare un settore completamente nuovo, soprattutto nel consumer internet si possono fare startup partendo da un primo investimento di 50.000 euro per poi andare avanti. Airbnb, non so se conosci questo sito, bellissimo per affittare appartamenti. Adesso devo andare a San Francisco, lo sto affittando lì, dove persone affittano la propria stanza, addirittura una dependance, eccetera. È stato fatto con un investimento di incubazione di $50,000. 2024. Riprendiamo la seconda, forse terza parte del 2024. Saluto Gianluca Dettori, che ci deve lasciare perché, come già detto, deve andare a San Francisco. Anche se in realtà gli aerei per gli Stati Uniti sono partiti questa mattina. Gianluca, però dimmi un'ultima cosa: se una persona ha un'idea, e effettivamente ce ne sono, anche ogni tanto qualcuno scrive 2024 credendo che noi abbiamo contatti con i vertici delle aziende mondiali, che cosa deve fare? Deve rivolgersi ai venture capital, ce ne sono una decina in Italia, si trovano facilmente gli indirizzi di email di tutte le persone rilevanti sul sito dell'AIFI, per esempio, aifi.it. Si scrive fondamentalmente il proprio progetto, tipicamente il punto d'ingresso più semplice è mandare 15 slide con tutto il progetto, diciamo dall'inizio alla fine, non solo l'idea, ma cosa vuol dire l'azienda, come si fa, quante persone coinvolgerà, quanti investimenti richiederà, come è fatto il prodotto, come verrà introdotto sul mercato, insomma un minimo di presentazione, e da lì inizia un'interazione con gli investitori fino a eventualmente arrivare appunto all'investimento. L'ultima startup che abbiamo finanziato è un ragazzo di 21 anni, si sta lavorando in economia, però scrive software da quando ha 10 anni, ha già lanciato tre siti nella sua carriera. E insomma, che azienda è? È un sito internet che fornisce servizi legali, diciamo così, online, in maniera molto semplice. Quanti soldi date voi alle aziende? Noi facciamo tipicamente investimenti che vanno da 50.000 euro a 250.000 euro e poi possiamo continuare a investire fino a un massimo di 750.000 euro, quindi siamo investitori cosiddetti seed. Poi sopra di noi ci sono investitori più grandi. Senti, se uno non ha 21 anni, 25 anni, ma ne ha 35-40? No, per tutti c'è sicuramente quest'anno questa opportunità che abbiamo inaugurato ieri col presidente napolitano Franco Bernabè, che si chiama Working Capital 150. Stiamo cercando 1000 idee per il futuro, quindi persone che hanno un'idea per risolvere i problemi che abbiamo grandi nell'umanità o in Italia, in 4 campi tra l'altro, non solo internet, si potrà anche proporsi nel campo delle scienze della vita, quindi tecnologie medicali per esempio, oppure nel campo del clean and green, o non so, anche nell'agricoltura, oppure nel campo di impatto sociale. E verranno poi, diciamo, con un processo di selezione, e si può iscriversi già da adesso al sito, a novembre verranno assegnati circa 2 milioni e mezzo di euro in capitali per far partire startup, progetti di ricerca anche, fino anche proprio aziende tecnologiche innovative in questi settori. Beh, insomma, quindi questa è una buona notizia, ci sono i soldi. Gianluca, grazie di essere venuto con noi in studio oggi, buon pomeriggio, buon weekend. Grazie, buon pomeriggio a voi. Dunque Marco, prima ne parliamo molto di Facebook. Prima domanda, c'è qualcos'altro o oggi dobbiamo concentrarci su Facebook? Qualche tempo fa una persona rispondendo a questa domanda, diciamo più un paio di anni fa, quando Facebook forse non era ancora conosciuto ma parlavamo di altri social network, mi diceva guarda, i social network sono un po' come i pub. Oggi va di moda quello, fra un anno va di moda qualcos'altro. Concordi? Ma devo dire che i profili d'adozione che stiamo vedendo sono, smentiscono abbastanza questa affermazione, perché pensiamo alla storia di Facebook. Facebook è successo molto rapidamente, però comunque è un fenomeno che ha assunto le dimensioni che ha oggi negli ultimi 4 anni fondamentalmente, quindi ha seguito un percorso di sviluppo che altri social network, citavamo ad esempio Twitter, no? Che ha tra l'altro assunto una notevole popolarità mediatica, perché è uno degli strumenti che è già stato usato anche dai ribelli durante i disordini in Iran e poi più recentemente nell'Africa mediterranea, no? Quindi è balzato molto agli onori della cronaca. Ciò non di meno, di fatto è uno strumento che si attesta su delle nicchie più per appassionati, sicuramente qualcosa che è destinato più agli esperti di comunicazione e di media. Quindi in realtà non è che poi tutti i social network riescono a fare dei numeri impressionanti come quelli che fa Facebook in questo momento, e non è così facile neanche pensare a rimpiazzare questi fenomeni, anche perché Facebook in particolare deve la sua persistenza, il suo successo al fatto che soprattutto per i molto giovani sta diventando a tutti gli effetti un'interfaccia alternativa al web, no? E quindi è l'ambiente che sostituisce a un certo livello addirittura il browser, no? Tutto avviene lì dentro. Quelli di Facebook è un mondo parallelo. E di fatto quelli di un internet nella internet, perché di fatto è questo, no? Sai che ormai una delle strategie di Facebook è sviluppare il proprio sistema di posta, che non vale soltanto tra gli iscritti al network, ma anche per scambiare messaggi con il resto del mondo. E uno dei fenomeni più impressionanti è il Facebook Commerce, no? Cioè, dicevamo prima che ci sono brand, marchi come Nutella, che non sono neanche marchi, sono un prodotto, cioè Nutella è della Ferrero, però la gente diventa fan del prodotto Nutella, come di moltissimi altri prodotti, anche italiani. Pensiamo. E quindi sta avvenendo un fenomeno per cui è così forte il prodotto all'interno di Facebook, per cui si crea un circolo virtuoso. Un circolo virtuoso di commercio, per cui Coca-Cola, che ha moltissimi fan, vende, e la cosa interessante è che poi vende i collateral, no? Perché vende il berrettino della Coca-Cola, la maglietta della Coca-Cola, e scusa se vorrei aggiungere questo ultimo elemento, non si vendono solo cose a basso prezzo, perché ci sono anche importanti marche di orologi piuttosto che di oggetti preziosi che comunque fanno dei volumi di commercio interessanti già oggi all'interno di Facebook. Dunque abbiamo 3 minuti per parlare di una cosa molto interessante, importante per il paese, che si chiama agendadigitale.org. Quasi tutti i paesi del mondo hanno una propria agenda digitale. Prima dicevamo che in Italia abbiamo effettivamente qualche problema di alfabetizzazione digitale. Tu sei uno dei fondatori di questo appello, chiamiamolo così, un gruppo di persone che lancia un appello. Che cos'è agenda digitale e perché all'Italia serve un'agenda digitale? Allora, lo dico in 3 parole. Come spesso accade quando ci si trova tra amici, ci si lamenta, no? E quindi anche noi una sera ci siamo trovati in un gruppo di amici lamentandoci appunto delle insufficienze, dell'arretratezza del nostro paese rispetto ad altri, pensando che la Germania ha il suo piano Digital Deutschland, l'Inghilterra il suo piano Digital Britain, che fa previsioni di investimenti da qui al 2020, la Spagna ha fatto fare un'analisi a dei consulenti indipendenti che gli hanno consigliato di investire 4 miliardi e non ha investito 4 miliardi e mezzo. La Comunità Europea ha dettagliato i pilastri di un'agenda digitale per l'Europa. Quindi tutti i paesi intorno a noi si stanno occupando, la comunità si sta occupando di questi temi, cioè di dare un peso, una rilevanza e un futuro all'economia digitale, che ormai in tutti i paesi ha un peso specifico importante sul prodotto interno lordo, il nostro paese no. Allora, il punto è sollecitare la politica a prendere in carico questo problema. Noi abbiamo messo insieme un gruppo di 100 amici, fondamentalmente, abbiamo comprato il 31 gennaio di quest'anno una pagina sul Corriere della Sera, abbiamo pubblicato il nostro appello. Ricordo a tutti che lunedì 21 marzo allo Yulm a Milano, il pomeriggio, c'è un appuntamento in cui cominciamo anche a contarci e a raccogliere delle idee, delle proposte da sottoporre alla politica. Questo ti faccio un'ultimissima domanda, sì. Ma abbiamo veramente 30 secondi. L'agenda digitale non vuol dire solo fornire il paese di una rete in fibra ottica, vuol dire tutta una serie di cose, ad esempio pubblica amministrazione digitale, esatto. Eccetera, eccetera. La dematerializzazione, no? Quindi avere una pubblica amministrazione che funziona digitalmente, alcuni passi sono già stati fatti in questo senso, il sistema educativo, colmare il divide che non è soltanto di infrastrutture, no? Ma è anche culturale, quindi educare i giovani e recuperare gli anziani alla cultura digitale. Bene, io ringrazio Marco Zamperini per essere stato con noi e anche per il lavoro che tu fai anche nel caso di agendadigitale.org. Buon lavoro, a presto. Grazie. Sono le 16:44 minuti, tra poco in collaborazione con National Geographic Channel andremo su Marte. 2024. Ultima parte di 2024, come sempre l'appuntamento con National Geographic, canale 403 della piattaforma Sky. Questa settimana partiamo da un documentario intitolato Due robot su Marte, della serie Scienza e Astronomia, in onda da lunedì al venerdì alle 18:10. Doveva essere una missione di 3 mesi su Marte, ma si è trasformata in una delle più grandi avventure dell'era spaziale. Viene esplorato un mondo alieno attraverso gli occhi di 2 rover a 160 milioni di chilometri. Le scoperte fatte aprono i nostri occhi su un nuovo Marte e non sono ancora finite. Opportunity comincia la propria missione a gennaio 2004, quando dopo un viaggio di 7 mesi arriva su Marte. Atterra in una regione chiamata Meridiani Planum, avvolto in un bozzolo fatto di airbag. Per caso finisce in un piccolissimo cratere. Al laboratorio di Pasadena aspettano le prime immagini. Finalmente, Opportunity esce dal guscio protettivo. Queste 2 sonde robot sono progettate per analizzare gli indizi sulla storia geologica di Marte, conservati in rocce e minerali. Entrambe hanno un braccio dotato di strumenti in grado di sgretolare la superficie erosa delle rocce e analizzarne la composizione. 4 fotocamere stereoscopiche consentono una visione tridimensionale, mentre una fotocamera panoramica ad alta risoluzione fornisce una visione d'insieme, unendo i singoli fotogrammi raccolti. Dei filtri colorati mettono in risalto i dettagli invisibili all'occhio umano e uno spettrometro a infrarossi cerca eventuali minerali formatisi in presenza di acqua. Per la navigazione, i rover utilizzano una visione grandangolare in bianco e nero, ottenuta grazie alle apposite fotocamere posizionate a livello del terreno, sia davanti che dietro. Come avete sentito, la missione di Spirit e Opportunity doveva durare 3 mesi e invece le cose sono andate sorprendentemente in modo diverso. Il giornalista scientifico Luigi Bignami. È proprio così, sono passati 8 anni e dovevano lavorare per 90 giorni. Opportunity in particolare si sta avvicinando ad un grande cratere, un cratere di 20 km di diametro e diciamo in questo suo attraversata di un deserto marziano ha fatto tantissime scoperte. Spirit purtroppo si è addormentato vicino ad una collina, questi ha attraversato un'area molto più complessa di Opportunity. Haiti, e quindi ad un certo punto si è letteralmente insabbiato. La NASA ha fatto tanti tentativi per estrarlo, ma alla fine hanno dovuto cedere. Ahimè, poi c'è stato l'inverno di mezzo e quindi si è dovuto far sì che lo si lasciasse riposare, perché certamente il sole non riusciva a caricare le celle fotovoltaiche. Con l'arrivo della primavera, avvenuto 4-5 mesi fa, hanno tentato di risvegliare Spirit, ma non ci sono riusciti. La NASA non ha ancora dato per morto definitivo questo rover e sperano comunque di poterlo riaccendere, perché il rover funzionava perfettamente prima dell'inverno. Quindi, anche se non dovesse poi essere in grado di camminare sulla superficie, potrebbe comunque rilevare dei dati sul posto che sarebbero ugualmente estremamente interessanti. Stiamo parlando dell'esplorazione del sistema solare, naturalmente c'è molta attenzione in modo particolare su Marte, ma che cosa possiamo dire degli altri pianeti e delle altre sonde che stanno perlustrando il sistema solare? 2 giorni fa è arrivata in orbita attorno a Mercurio la sonda della NASA Messenger. È la prima volta che l'uomo riesce a mettere in orbita attorno a questo pianeta una sonda per poterlo studiare da vicino e per lungo tempo. A causa della sua vicinanza dal Sole è sempre stato molto difficile fare in modo di arrivare lì e di farci rimanere una sonda. Le temperature sono altissime, abbiamo 200-300 gradi quando si è rivolti verso il Sole, tant'è che questa sonda porta uno schermo che nessun'altra sonda ha portato nei suoi viaggi nel sistema solare. E quindi nei prossimi anni avremo modo di svelare i tanti misteri di questo pianeta. Il mistero principale è che esso possiede un nucleo enorme, gigantesco rispetto agli altri pianeti solidi come Venere, la Terra o Marte. E quindi ecco, questo è davvero un appuntamento importante per l'astronomia, per la planetologia, che non ci si aspettava di riuscire ad avere una sonda davvero attorno a questo pianeta. Un altro grande successo è quello della sonda Cassini, che si ha in continuazione, un successo continuo, diciamo, dal 2004, da quando c'è questa sonda, è entrata in orbita attorno a Saturno. È proprio degli ultimi giorni che la sonda ha studiato con grande dettaglio uno dei suoi satelliti Titano e ha potuto studiare e seguire le variazioni climatiche che ci sono durante le stagioni. Lassù, e non lo si sapeva prima, piove metano, ci sono dei laghi di metano, ci sono dei fiumi di metano e c'è questa atmosfera molto densa composta di azoto che impediva tutto questo, impediva di conoscere tutto questo dagli studi fatti a terra o da altre sonde che avevano sorvolato da vicino Saturno. Quindi questa sonda non solo ci ha permesso di studiare da vicino questo gigante tra i pianeti, i suoi anelli spettacolari e tutti gli altri satelliti, sono una 60, quelli che ruotano attorno a Saturno, ma ha centrato con grandissima attenzione quello che è appunto questo satellite che ricorda in qualche modo le condizioni primordiali della Terra. Concludiamo con altre sonde, andando un po' indietro nel tempo. Tu hai citato prima Messenger, molte di queste sonde hanno nomi molto affascinanti, il Messaggero in questo caso. Una delle prime sonde lanciate molti anni fa si chiamava il Viaggiatore, il Voyager. A che punto è arrivata? È arrivata a 17 miliardi di chilometri dalla Terra e la Voyager 1 continua a funzionare. Proprio nelle ultime settimane è stato chiesto a questa sonda di ruotare di circa 30 gradi per studiare il vento solare, cioè quelle particelle che escono dal Sole e che poi si disperdono nello spazio interstellare. Ebbene, studiando questo vento solare ha potuto stabilire che proprio in questo punto, cioè a circa 17 miliardi dal Sole, termina il sistema solare perché questo vento solare è talmente indebolito che le radiazioni cosmiche prendono il sopravvento e questa sonda manda i suoi segnali con una potenza di un watt. Provate a pensare, a 17 miliardi di chilometri da noi ci vogliono circa 16 ore perché il segnale arrivi qui sulla Terra, e 16 ore perché i tecnici chiedano qualcosa alla sonda e la sonda ne riceva appunto il segnale inviato. Questa sonda adesso continuerà il suo viaggio tra le stelle e stando ai dati sembra che la sonda possa trasmettere a Terra fino al 2025, ma certamente adesso non troverà più niente, diciamo così, dovranno passare, si ipotizza, circa 25.000 anni perché questa sonda passi vicino ad una stella e forse là, se c'è un pianeta, se c'è qualcuno di intelligente, la potrà catturare e allora potrà leggere quella targa che l'uomo mise su questa sonda. È un disco, un vero e proprio disco nel quale ci sono dei disegni, ci sono delle fotografie, c'è il messaggio dell'uomo all'universo intero. E pensare a questa sonda che viaggia così nel buio dello spazio, pensate a 40.000 chilometri all'ora, è davvero una cosa affascinante. E con questi segnali che arrivano a questa distanza inimmaginabile, chiudiamo questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Vi ricordo che il programma tra poco sarà disponibile attraverso il nostro sistema podcast. Potrete scaricare il file MP3 anche di questa trasmissione. Riprendiamo la settimana prossima. Ci occuperemo di TV, di tutto questo mondo che sta cambiando rapidamente, strumenti che oramai si connettono anche ad internet, quindi parleremo di smart TV, di connected TV, tra l'altro in collegamento con un centro commerciale, quindi inizieremo una serie di appuntamenti proprio dal prossimo sabato in diretta con i clienti che scelgono questi prodotti. Ringrazio per questa puntata Luca Rinaldi e Marco Lombardo in redazione, in regia per la parte tecnica e creativa Paolo Corleoni. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.